Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Riuscite a immaginare due situazioni più lontane tra di loro di un conflitto armato e di uno spettacolo di magia? L'uno che si combatte a colpi di cannone, l'altro che sforna conigli da un cilindro. L'uno tremendamente reale nella sua drammaticità, l'altro espressione massima dell'illusione che diviene spettacolo. Eppure, la storia di oggi ci racconta di un uomo che è riuscito a trasportare l'illusione nella cruda realtà della guerra, mettendo al servizio del proprio paese le sue incredibili capacità di mago. A Destini incrociati, vi raccontiamo le gesta assolutamente uniche di un eroe che durante la Seconda Guerra Mondiale ha creato illusioni al limite del possibile, ingannando le più alte gerarchie dell'esercito nemico e gli strateghi più consumati, con i suoi trucchi senza precedenti. È il primo personaggio di oggi e il suo nome è Jasper Maskelyne. Jasper Maskelyne. È il novembre del 1942. La Seconda Guerra Mondiale è nella sua fase più cruciale e vede schierati da un lato le potenze dell'asse, Germania, Regno d'Italia e Impero Giapponese. Dall'altra gli alleati, Impero Britannico, Stati Uniti d'America, Francia e Unione Sovietica. Siamo a El Alamein. Questa bellissima cittadina, il cui nome in arabo significa due bandiere, si trova a 240 chilometri a nord del Cairo e rappresenta in questo momento un avamposto essenziale della difesa britannica nel Nord Africa. Le forze italo-tedesche hanno già tentato una volta di conquistarla in luglio, ma il conflitto è terminato con un nulla di fatto. Ora si è ripreso a combattere con una nuova tremenda offensiva tedesca. Tra le file degli inglesi, un uomo in particolare è molto teso, è il maggiore Jasper Maskelyne. Egli sa molto bene che la situazione di stallo che si è venuta a creare ad El Alamein deve cambiare, e deve cambiare in favore degli alleati. Ma la Germania di Hitler si è dimostrata invincibile fino a quel momento, e lui è stato chiamato lì proprio per cercare di stravolgere questa situazione. Ma come può riuscirci? Chi è quest'uomo, il cui nome sembra più un'invenzione artistica che non una realtà? Nato a Londra nel 1902, Jasper Maskelyne è l'ultimo rampollo di una stirpe di illusionisti famosi. Suo nonno è John Neville Maskelyne, non solo il mago più noto dell'epoca in Inghilterra, ma anche l'inventore di tecniche di illusione talmente valide che sono tuttora eseguite in tutto il mondo dai moderni illusionisti. Sua invenzione è ad esempio la notissima illusione chiamata Metamorphosis, poi perfezionata e portata alla ribalta del pubblico internazionale dal grande Harry Houdini. It's the fastest illusion in the world, Houdini's Metamorphosis. Suo padre, invece, è Neville Maskelyne, illusionista talmente apprezzato in Inghilterra che durante la Grande Guerra viene scelto per allenare maghi spia niente meno che dal tenente colonnello Thomas Edward Lawrence, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Lawrence d'Arabia. Jasper nasce e cresce attorniato dall'illusione. Fin da bambino prova, sperimenta. I suoi giochi sono le invenzioni del padre e del nonno. Ma ascoltiamo dalla sua voce lo spezzone di uno spettacolo di illusione che egli stesso compie, conquistando un grandissimo successo di pubblico. L'altro giorno sono andato dal mio dottore e gli ho detto: «Dottore, non mi sento molto bene». E lui mi ha risposto: «Cos'ha? Non riesco a mangiare bene. Mi può dare un buon tonico che rinforzi il mio appetito?» E lui: «Se fossi in lei, mangerei una grande quantità di lamette ogni giorno, che le ridaranno l'appetito». A questo punto Maskelyne ingoia in rapida successione una serie di lamette di cui mostra la totale veridicità, tagliando con esse del cartone prima di mandarle giù. Ci beve sopra un bel bicchiere d'acqua e poi sfila elegantemente dalla bocca una cordicella con le lamette perfettamente infilate l'una dopo l'altra. Un vero prodigio. Mm-hmm. Meskelin è l'illusionista perfetto. Abile, elegante, raffinato, bello, sa di piacere al pubblico femminile, che incanta grazie alla sua rassomiglianza con un divo del cinema che in quegli anni fa impazzire tutte le donne, Rodolfo Valentino. Una sera, mentre sta riponendo i cilindri e i mantelli da mago, dopo un suo ennesimo spettacolo, Meskelin sta ascoltando la radio. Le notizie della situazione politica mondiale non sono affatto rassicuranti e lui, che ha un profondissimo senso della patria, si sente inquieto. Il primo settembre 1939, Hitler annuncia al Reichstag che le truppe tedesche hanno varcato la frontiera polacca. È l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Quando viene dato l'annuncio dello scoppio della guerra, egli non ha un secondo di incertezza. Decide all'istante di arruolarsi volontario. Sente in cuor suo di avere un'arma invincibile da mettere al servizio della patria, la sua smisurata conoscenza delle arti dell'illusionismo. Per ironia della sorte, le sue convinzioni si dimostrano però del tutto illusorie. I responsabili del genio militare britannico, ai quali Meskelin si rivolge offrendo i propri servigi, ridono di lui e gli domandano a cosa possa mai servire in una guerra vera un mago. In una parola, gli sbattono la porta in faccia. Se proprio ha voglia di fare il soldato alla tenera età di 37 anni, che imbracci un fucile e si prepari a sparare. Jasper non ci sta. È tornato a casa, si direbbe con la coda tra le gambe, ma la forza e la determinazione che lo caratterizzano hanno la meglio sulla delusione iniziale. Si guarda intorno, gli attrezzi del suo lavoro sembrano parlargli, la consapevolezza di quanto egli possa fare per aiutare la nazione nel difficile momento che sta per attraversare gli dà l'energia giusta. Ed ecco l'idea di come fare, che arriva da un caro amico di famiglia, Henry Bentley Lenton. Costui è un uomo piuttosto influente negli ambienti politici inglesi e Jasper gli parla immediatamente. La sua foga è contagiosa e riesce a convincerlo. Lenton scrive allora una lettera indirizzata al 10 di Downing Street, Londra. È il 20 settembre del 1940. Egregio signore, in assenza del nostro agente di servizio, devo necessariamente rivolgermi a lei di persona per la seguente faccenda. Ho avuto una conversazione con il signor Jasper Maskelin, quel Maskelin, il quale mi ha persuaso che ci sono ottime possibilità che alcuni dei suoi cosiddetti trucchi, se sfruttati con mezzi potenti e utilizzati in altra forma, si possano rivelare preziosi strumenti nelle attuali condizioni belliche, in particolare contro l'aviazione. Sono convinto che pochi minuti del suo tempo così prezioso sarebbero ben spesi in un breve colloquio per farsi un'opinione personale delle sue abilità. Nel qual caso un suo sollecito al dipartimento di competenza sveltirebbe le procedure burocratiche. La prego di credere che il mio obiettivo è quello di evitare inutili perdite di tempo. Sono il suo servo devoto, Henry Bentley Lenton. Il destinatario di questa lettera è un uomo che tutto il mondo ha avuto modo di conoscere, uno statista di grandissimo valore, la cui influenza e le cui decisioni sono state determinanti nella storia dell'intera umanità. Un uomo che, quando legge la lettera di Lenton, comprende le potenzialità di questo tale Jasper Meskelin e decide di riceverlo, pur tra i suoi mille impegni. Meskelin siede nell'anticamera dell'ufficio del primo ministro inglese. È incredibile che si trovi lì, si sente ovviamente molto emozionato, ma sa anche di avere i giusti argomenti per perorare la sua causa e soprattutto sa che si troverà di fronte a una personalità gigantesca, un uomo capace di comprendere appieno ciò che egli sta andando a proporgli. Tra sé e sé ripete quello che gli dirà. La magia del palcoscenico, il mio lavoro, non è altro che un pizzico di suggestione, un altro pizzico di conoscenza della natura umana e un uso piuttosto elementare dei principi scientifici. La realizzazione di aspettative realizzate con cura. In effetti non è una cosa molto diversa dalla mimetizzazione impiegata dai militari. Posso indurre i nazisti a vedere cannoni dove si aspettano di vedere cannoni e soldati dove credono ci possano essere soldati. Quando la porta dell'ufficio si apre e appare il primo ministro, Meskelin avverte in maniera tangibile la forza e la personalità acuta e determinata di quell'uomo che, nonostante i pressanti impegni dovuti anche alla recentissima entrata in guerra del suo paese, ha trovato il tempo di riceverlo. In quel preciso istante, egli si rende conto dell'importanza di questo incontro, che cambierà non solo il corso della sua vita, ma anche quello della storia. L'uomo che gli siede di fronte, che lo invita ad accomodarsi, è il secondo personaggio dei destini incrociati di oggi. Il suo nome è Winston Churchill. Winston Churchill. Per Jasper Meskelin è impossibile non provare una certa soggezione nei confronti di chi gli sta seduto davanti e gli viene spontaneo ripercorrere con la velocità tipica del pensiero ciò che sa di lui. Sir Leonard Winston Churchill Spencer è universalmente considerato uno degli uomini di Stato più importanti, non solo d'Inghilterra, ma di tutto il mondo. Di padre inglese, ma di madre americana, egli si dimostra sempre un fervente sostenitore dell'amicizia tra i popoli anglosassoni e dei particolari vincoli che legano tra loro Gran Bretagna e Stati Uniti. Quando nel settembre del 39 l'Inghilterra dichiara guerra alla Germania, egli viene nominato primo ministro e grazie alla sua dichiarata amicizia nei confronti degli Stati Uniti collabora strettamente con il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, riuscendo a ottenere aiuti militari e sostegno per il suo paese. Churchill è famoso per la sua splendida capacità oratoria e per i suoi discorsi che trascinano le folle. E questo Maskelyne lo sa bene. Trovarselo di fronte e dovergli parlare è di certo per lui il momento più difficile della sua vita. Ma la posta in gioco è altissima e l'illusionista si impone di mettercela tutta. Il primo ministro lo ascolta in silenzio, la fronte corrugata e un enorme sigaro tra le dita. Maskelyne racconta con passione e con dovizia di particolari tecnici, le possibilità di impiego dei sistemi di mimetizzazione, l'utilizzo di tecniche di illusione luminosa e tutto il repertorio che si è preparato per convincere Churchill della bontà dei suoi propositi. Ma non deve sforzarsi troppo. Dopo alcuni minuti, il suo interlocutore si alza dalla poltrona di pelle marrone che troneggia nel suo ufficio di primo ministro e proferisce un'unica frase risolutoria. La verità è così preziosa che bisogna proteggerla sempre con una cortina di bugie. Dopo pochi giorni, Jasper Maskelyne viene arruolato nell'esercito inglese e messo a capo di un gruppo di 14 persone tra architetti, restauratori di arte, carpentieri, chimici, ingegneri, elettricisti, imbianchini e creatori di scenografie teatrali. Tecnicamente, il gruppo si chiama Camouflage Experimental Section, ma tutti la chiamano la Magic Gang, un gruppo di uomini che apparentemente non risulta esistere, in quanto le loro gesta devono rimanere il più segrete possibile per evitare fughe di informazioni. Maskelyne è al settimo cielo. Dopo un breve periodo di training, tenuto assolutamente segreto presso la Fernham Genius Camouflage, scuola per ufficiali addetti alla mimetizzazione, situata a pochi chilometri da Londra, sotto la guida del capo d'armata Lord Gort, i magnifici 14, con in testa Jasper Maskelyne, salgono a bordo dei velivoli dell'aviazione inglese con destinazione Egitto. Tra gli altri, Julian Trevelyan, Gabriel White, Blair Hugh Stanton, che dopo la guerra diventeranno notissimi artisti delle avanguardie pittoriche inglesi. Mentre l'aereo è in volo tra Londra e Alessandria d'Egitto, Jasper Maskelyne è assorto. Sta già pensando a quello che dovrà affrontare una volta atterrato. Il nemico è potente. La Germania di Hitler non sembra avere punti deboli e i suoi eserciti, soprattutto l'aviazione, non danno tregua. Ma Jasper ha una fede cieca nel potere dell'illusione. Lui che ci è nato e ci è cresciuto sa molto bene che si può far vedere cose che non ci sono e nascondere invece quello che c'è realmente con pochi artifici. Il resto lo fanno egregiamente le cosiddette convinzioni precostituite. Ascoltate come descrive questo processo mentale lo psicologo Italo Pentimalli. Allora, le credenze sono veramente forme di pensiero che plasmano la nostra realtà, ovvero ciò che ci fa dire cosa è possibile, cosa è impossibile, ciò che è vero e ciò che è falso. Forti di questa convinzione, Jasper Maskelyne e i suoi uomini si danno subito da fare. I servizi segreti inglesi, con i quali la Magic Gang è in contatto costante, li informano di avere intercettato la notizia di un imminente bombardamento dell'aviazione nazista, che dovrebbe avere come bersaglio il porto di Alessandria d'Egitto, punto nevralgico di importanza vitale per la difesa britannica. Maskelyne si mette al lavoro con i suoi uomini per creare la prima delle sue innumerevoli illusioni. Ricostruisce un finto porto di Alessandria 3 chilometri più a sud, con falsi edifici, false luci e falsa contraerea, inducendo i bombardieri tedeschi a credere che la città si trovi lì. La Magic Gang riproduce esattamente l'illuminazione del porto nel bel mezzo del nulla e fa spegnere le luci della città vera. Il risultato è spettacolare. I nazisti colpiscono per 9 notti di fila il falso bersaglio. Per Jesper sono 9 notti di esaltazione. Non solo il porto è salvo, ma l'aviazione tedesca deve contare su un enorme quantitativo di bombe sprecate. E questa è una vittoria doppia per gli inglesi. Quello che egli ardentemente sperava, tutti i suoi sforzi e l'impegno convogliati verso l'obiettivo di confondere il nemico grazie alle sue capacità di illusionista, sono ora realtà. E mentre ad Alessandria d'Egitto si festeggia, un uomo, pur nell'impassibilità impostagli dal ruolo e dalla carica che riveste, non può evitare di gioire in cuor suo. Il sigaro cubano della sua marca preferita, un Romeo y Giulietta, che si accende dopo aver ricevuto la notizia del fallito bombardamento, ha il sapore della vittoria. Quell'uomo è il primo ministro inglese Winston Churchill. Il discorso di fiducia e di speranza per una risoluzione positiva del conflitto armato che egli rivolge al popolo inglese rimane una pietra miliare nella storia della Seconda Guerra Mondiale. Combatteremo nelle spiagge, combatteremo nei luoghi di atterraggio, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo nelle colline, non ci arrenderemo mai. E se, cosa che non credo, quest'isola dovesse essere soggiogata e alla fame, allora il nostro impero d'oltremare, armato e protetto dall'armata britannica, porterà avanti lo scontro fino a che, nel nome di Dio, il nuovo mondo, con tutto il suo potere e la sua forza, si farà avanti per la salvezza e la liberazione del vecchio. Spronati dalle parole del primo ministro, gli uomini della Magic Gang di Jesper Maskelyne sono già alle prese con la loro seconda memorabile impresa. Grazie ad alcuni giochi di luce, ottengono la sparizione del canale di Suez, che è nelle mire dei bombardieri tedeschi, posizionando grandi riflettori che si accendono contemporaneamente sugli aerei, accecandoli nel vero senso della parola. Questo consente il passaggio indenne delle navi alleate, che sarebbero altrimenti facilissimi bersagli nel canale. È un nuovo successo per Maskelyne, che però non dorme sugli allori. Il nemico è sempre e comunque pericolosissimo. Le sue offensive arrivano da ogni dove e bisogna sempre essere pronti. Jesper sta facendo costruire in gran segreto delle intelaiature di tela e tubi di ferro che, visti dall'alto, fanno apparire i carri armati dei semplici camion da trasporto. Il risultato gli pare più che soddisfacente e lui sa bene che presto o tardi questa tecnica di camouflage gli sarà di grande aiuto. Destini incrociati. Destini incrociati vi racconta oggi la storia di un uomo che con i suoi trucchi riesce a sconvolgere le certezze del potente esercito nazista durante il secondo conflitto mondiale, creando illusioni che fanno apparire cose laddove non sono e sparirne altre da dove dovrebbero essere. Quest'uomo è il grandissimo illusionista inglese Jesper Maskelyne, maggiore dell'esercito britannico. Il nostro protagonista incontra sul suo cammino il primo ministro inglese Winston Churchill e lo convince ad affidargli una brigata di uomini che egli chiama la Magic Gang, con i quali viene mandato nel Nord Africa a compiere imprese al limite del possibile. Ricostruisce un finto porto di Alessandria d'Egitto, alcuni chilometri a sud di quello vero, salvandolo dai bombardamenti tedeschi. Rende invisibile il canale di Suez con una serie di specchi e giochi di luce, consentendo alle navi alleate di attraversarlo in tutta sicurezza e guadagnandosi così il soprannome di Mago della Guerra. Le sue grandi doti di scaltrezza sono indubitabili, ma ad attenderlo sul suo cammino c'è qualcuno di altrettanto scaltro, una vera e consumata volpe da combattimento. Griffen wir bei Michili am 6. aprile 1941 an. Quella che sentite è la voce del comandante delle famose Deutsche Afrika Korps, le truppe tedesche in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, Erwin Rommel. Nominato personalmente dal Führer Adolf Hitler, è considerato l'unico comandante ad essersi guadagnato l'onore e il rispetto dei propri nemici. Il feldmaresciallo tedesco si distingue per le sue doti di scaltrezza e la sua abilità come stratega, tanto da meritare l'appellativo di Desert Fox, la volpe del deserto. Ecco come ne parla il conte Heinrich von Einsiedel, il suo secondo tenente. Era senza alcun dubbio un comandante carismatico, capace di ispirare i suoi uomini in maniera assoluta, ed era anche un tattico di altissimo livello, ma non si possono separare i suoi risultati militari dal contesto in cui essi avvennero. Per chi erano questi risultati? Per il sistema criminale nazista. La volpe del deserto. Questo pseudonimo continua a girare in testa a Jasper Meskelin. Mentre è al lavoro nel suo laboratorio segreto nei pressi del Cairo, intento a preparare alcune sagome di soldati e di cavalli finti, che ne è certo prima o poi gli serviranno, il nostro illusionista si concentra, cercando di immedesimarsi in quell'uomo, quel nemico di assoluto rispetto che gli sa essere scaltro stratega e acuto combattente. E questo, sinceramente, lo spaventa un po'. Ma il suo compito, quello che ha promesso a Churchill e che intende rispettare, è non arrendersi mai. E così Meskelin va avanti. Con l'inventiva tipica della sua personalità poliedrica, realizza tutta una serie di oggetti utili alla fuga dei soldati fatti prigionieri, fra i quali una bussola miniaturizzata, mini cesoie, lime e altre diavolerie da nascondere nei bottoni, nelle scarpe, nei colletti delle camicie. Le sue invenzioni ricordano moltissimo quelle di un personaggio di fantasia molto amato dal pubblico di tutto il mondo. Ecco come lo descrive l'esperta di cinema Marie Clairoux. The name is Boothroyd. Il nome è Boothroyd, Maggiore Boothroyd, meglio noto come Q. Desmond Llewellyn. È diventato una leggenda interpretando il signore dei gadget della MI6, che appassionò il pubblico fornendo a 007 apparecchiature micidiali. Creato dalla mente di Ian Fleming, il padre di James Bond, Q è il prezioso alleato dell'agente segreto 007 con licenza di uccidere e gli fornisce armi e attrezzature speciali che in molti casi gli salvano la vita. Famosa è rimasta la Aston Martin DB5 modificata. Userai questa Aston Martin DB5. Allora, presta attenzione, prego. Vetri a prova di proiettile, ai due lati e sul retro. Tre targhe intercambiabili valide in tutti i paesi, più alcune altre interessanti modifiche. Vedi questo bracciolo della poltrona guidatore? Se apri il coperchio ci sono i tuoi meccanismi di difesa. Cortina di fumo, olio che si riversa sull'asfalto, fucili a destra e a sinistra. È molto probabile che Ian Fleming, egli stesso comandante della Marina Britannica e collaboratore dei servizi segreti durante la Seconda Guerra Mondiale, si sia ispirato a personaggi come lo stesso Meskelin per creare la figura di Q, elemento riuscitissimo che ha contribuito al successo dei libri e della lunga serie di film sull'agente segreto più famoso del mondo. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. I servizi segreti inglesi informano le truppe dislocate nei pressi del Cairo che presto i tedeschi sferreranno un secondo attacco a Del Alamein. La prima offensiva si è risolta in un nulla di fatto, ma questa volta tutti sono certi che i combattimenti avverranno all'ultimo sangue e si conteranno un vincitore e un vinto. Anche perché è arrivato un degno avversario per Rommel. We will stand and fight here. If we can't stay here alive, then let us stay here dead. La voce metallica, la determinazione più ferrea, il piglio combattivo ma al tempo stesso coinvolgente sono quelli di un leader indiscusso. Il generale Bernard Law Montgomery, considerato dagli storici uno stratega di altissimo livello, il futuro Field Marshal, capo dello Stato Maggiore Imperiale, nonché comandante supremo di tutte le forze della NATO, viene destinato in Nord Africa per contrastare la furia delle truppe tedesche di Rommel. Duncan Anderson, dell'Accademia Militare di Sandhurst, lo ricorda così. Montgomery incarnava uno specifico modello di comandante. Era solito pianificare sempre tutto in maniera accurata e meticolosa. Era calmo e imperturbabile. Prima che iniziasse la battaglia, il generale inglese aveva già pianificato ogni cosa e impartito precise istruzioni ai suoi comandanti. Montgomery ha una personalità travolgente. Avvolto in quel suo cappotto tanto particolare, chiuso da alamari di corno nero, che prenderà da lui il nome, conquista il rispetto e la fiducia di tutti i soldati inglesi che si trovano in Nord Africa. Il maggiore Meskelin ne ha una sconfinata ammirazione e vuole aiutarlo in ogni modo. Per questo ha bisogno di una grande idea. El Alamein non deve cadere nelle mani del nemico. Ecco come descrive la situazione di quel momento Lloyd Clark, dell'Accademia Militare di Sandhurst. La posizione degli alleati nel 1942 era piuttosto difficile. Le forze dell'asse erano in netto vantaggio Nel 40 avevano sconfitto i francesi nei Paesi Bassi e fino alla prima metà del 42 avevano riportato diversi successi nell'avanzata in Unione Sovietica. In Africa settentrionale, poi, la pressione delle truppe italo-tedesche era diventata sempre più insistente. Jasper Maskelin è seduto nella sua tenda da campo, circondato dagli altri componenti della Magic Gang. Il suo pensiero continua a girare intorno all'essenza dell'illusione. Far credere quello che non è, far vedere le cose che non ci sono e non far vedere quelle che effettivamente sono reali. Ed ecco, attaccandosi con caparbietà alle sue certezze, alle sue conoscenze, che la tanto desiderata idea gli arriva. L'informazione che fa scattare la molla nella testa di Maskelin è la notizia segreta che Montgomery ha intenzione di schierare le proprie truppe a nord di El Alamein. Per prendere Rommel in contropiede, l'illusionista propone ai suoi superiori di far credere ai tedeschi che gli inglesi arriveranno invece da sud. È una follia. Si tratta di ingannare la volpe del deserto, un uomo astutissimo che fino a quel momento non ha mai perso una battaglia. Non c'erano alberi né erba, solo sabbia e rocce. Si poteva arrivare anche a 50 gradi all'ombra. Si rischiava di impazzire per il caldo. Le condizioni climatiche dell'Africa settentrionale sono drammatiche, soprattutto per gli inglesi, uomini abituati ad altri climi, decisamente più freddi. Ma Jasper Maskelin e i suoi non demordono e si mettono febbrilmente al lavoro. Le operazioni da portare avanti in parallelo sono due. Da un lato, mascherare le truppe che si dispongono a nord, quelle vere. Dall'altro, creare un vero e proprio esercito finto da schierare a sud. Il nostro folle illusionista è lì, sotto quel cocente sole africano. Il sudore gli cola sulla fronte, l'arsura gli lega la bocca, la pelle gli brucia. Ma niente e nessuno sono in grado di fermare la sua tenacia. La Magic Gang realizza a tempo di record una serie di strutture di ferro e tela che vanno a coprire i carri armati, dando l'impressione dall'alto che si tratti di semplici camion. Viene perfino installato su ogni carro armato un sistema che cancella le impronte dei cingoli sulla sabbia. Una vera opera d'arte. Di queste strutture ne vengono completate più di 1000 in pochi giorni. E poi è la volta dell'esercito fittizio. Maskelin realizza 2000 carri armati gonfiabili con tanto di cannone, due divisioni corazzate posticce, con suoni e rumori, manichini di soldati che si muovono, alcuni perfino seduti sulle latrine, un finto acquedotto di 35 km costruito con ghirbe per la benzina schiacciate e una ferrovia finta con tanto di treno posticcio a sud di El Alamein. Tutto questo ha lo scopo di convincere Rommel a bombardare a sud e attaccare da nord. In questa maniera, egli penserà di trovarsi l'esercito di Montgomery di fronte, mentre invece si tratta solo di manichini e gonfiabili. L'esercito vero, in realtà, sarà alle sue spalle e potrà assalire i tedeschi di sorpresa dalle retrovie. Un piano perfetto. Ma la volpe del deserto ci cadrà? Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi a El Alamein, in Egitto, teatro della battaglia decisiva durante la Seconda Guerra Mondiale tra le forze degli alleati, guidate dal comandante Montgomery, e quelle dell'asse, agli ordini della volpe del deserto, Erwin Rommel. Un uomo è particolarmente in ansia per il destino di questo conflitto che si preannuncia assai cruento. Il suo nome è Jasper Maskelin, famoso illusionista inglese e maggiore dell'esercito britannico di stanza in Africa. Le sorti della sua vita e quelle della guerra in corso sono cambiate radicalmente dopo il suo incontro con il primo ministro inglese Winston Churchill, che ha creduto in lui e nelle sue capacità. E così, dopo aver fatto sparire il canale di Suez e aver spostato il porto di Alessandria ad Egitto, salvandoli dai bombardamenti tedeschi, Maskelin e la sua Magic Gang sono ora impegnati nella loro impresa più difficile, la difesa di El Alamein. Una battaglia la cui importanza ha segnato a tal punto la storia da ispirare un famoso film di Calvin Paget del 1965. 24 ottobre 1942. Depressione di El Kattara. Si gioca la carta decisiva della campagna d'Africa. Chi vince qui vince la guerra. Qui staremo, vivi o morti, finché Rommel cederà. Porca vacca! Qui ci ammazzano tutti! L'intervento di Jasper Maskelyne e della Magic Gang in questa battaglia può rivelarsi decisivo. Camuffando il vero esercito di Montgomery che arriva da nord e creando un finto schieramento a sud, un vero e proprio esercito di cartone, l'illusionista inglese spera di convincere il feldmaresciallo Erwin Rommel che gli alleati hanno concentrato le loro truppe ai margini della depressione di El Kattara, all'interno del deserto libico, quindi a sud. Ecco il racconto di Clifford Pace, della settima divisione corazzata britannica. Gli inglesi dislocarono un po' ovunque finti carri armati costruiti con sagome di compensato attaccate a delle jeep, mentre i veri carri posizionati a nord vennero camuffati da camion. Furono usati vari stratagemmi per far credere a Rommel che l'attacco sarebbe avvenuto a sud. Venne realizzato perfino un finto oleodotto. Si tratta di un piano azzardato, ma eccellente. Tuttavia, Jasper Maskelyne vive ore di ansia incontenibile, perché teme che la volpe del deserto, lo scaltrissimo Erwin Rommel, non si lasci ingannare dalle sue illusioni e dai suoi trucchi. È accampato con i suoi uomini nelle retrovie e attende una notizia che possa sciogliere le sue paure, quella che i tedeschi hanno bombardato a sud. Intanto, Churchill a Londra segue l'evolversi della situazione nell'Africa settentrionale. Egli è convinto che la battaglia di El Alamein rappresenti un momento cruciale nell'andamento della guerra. Sa che dal suo esito dipende l'evoluzione positiva del conflitto. Gli interventi di Jasper Maskelyne e della Magic Gang lo soddisfano in pieno. È certo che i trucchi dell'illusionista riusciranno a confondere i nazisti e ad aiutare Montgomery nell'offensiva. E così avviene. I bombardamenti si susseguono a sud, mentre Montgomery sferra l'attacco dalla parte opposta. La battaglia si infervora. Rommel, accortosi che le forze maggiori dell'esercito alleato arrivano da nord, sposta velocemente le sue truppe, ma l'esito del conflitto volge decisamente in suo sfavore. Dopo una battaglia molto dura, all'Africa Corps restano solo pochi carri armati operativi. È il 3 novembre 1942. Rommel invia un telegramma a Hitler. Ritengo di dover salvare ciò che resta della mia armata. È necessario ritirarsi. Il 4 novembre le truppe tedesche iniziano a ripiegare verso ovest. La battaglia di El Alamein si può considerare vinta dagli alleati. Le truppe inglesi di stanza a El Alamein esultano. I loro sforzi disumani hanno ottenuto il riconoscimento più ambito, la vittoria. Jasper Maskelyne si sente finalmente più sereno. Il suo contributo è stato di certo determinante nell'evoluzione del conflitto, ma le sue gesta devono rimanere nell'ombra. La guerra non è finita ed è molto probabile che verrà richiesto ancora il suo intervento, che per essere efficace deve rimanere il più segreto possibile. Till all my sleeves are stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Maskelyne e la Magic Gang rientrano in Inghilterra. Mentre sono in volo, Jasper ripercorre gli ultimi mesi passati e in cuor suo non può che essere orgoglioso di quanto lui e i suoi uomini sono riusciti a fare. Ma mentre osserva i suoi soldati che sonnecchiano finalmente rilassati, dopo giorni e giorni di tensione, risente le parole che Winston Churchill pronuncia al termine del conflitto appena conclusosi. Questa non è la fine. Non è nemmeno l'inizio della fine. Forse è la fine dell'inizio. In effetti c'è ancora un arduo compito che aspetta Jasper Maskelyne e la sua Magic Gang. Forse il più difficile di tutti e di sicuro il più risolutorio per la fine della guerra. Dopo un breve periodo di meritato riposo, l'illusionista viene infatti ricontattato e rientra in servizio. Il più assoluto riservo avvolge la sua nuova missione. Gli alleati hanno deciso di sferrare il colpo definitivo alla Germania di Hitler. Per questo preparano uno sbarco da nord, che è stato stabilito avvenga in Normandia. Il comandante supremo della forza di spedizione alleata è il generale Eisenhower, mentre il comandante operativo per le forze di invasione terrestre è una vecchia conoscenza di Jasper Maskelyne, il generale Montgomery. Mentre le truppe alleate si preparano all'operazione Overlord, nome in codice dello sbarco in Normandia, Jasper Maskelyne sta viaggiando con gli altri membri della Magic Gang. La sua destinazione è segretissima. L'ordine che ha ricevuto è quello di creare un diversivo a Calais, il luogo francese più vicino alle coste inglesi, di fronte a Dover, il punto più probabile dove i tedeschi si aspettano un'invasione e quindi il meglio difeso. Maskelyne programma la realizzazione di un finto esercito e un finto sbarco, ma le cose vanno fatte in grande, vista la portata dell'operazione, ed ecco perché egli si trova in questo momento su un aereo che sta portando lui e i suoi uomini a Londra. Ha un appuntamento con un uomo che deve aiutarlo. Il suo nome è Basil Spence ed è uno degli architetti più famosi di tutta l'Inghilterra. Smile, though your heart is aching. Il loro incontro avviene all'interno dei Pinewood Film Studios ad Iverhead, appena fuori Londra. Si tratta degli immensi studi cinematografici che in tempi più moderni legano indissolubilmente il loro nome, per ironia della sorte, proprio ai film di James Bond, girati praticamente tutti al loro interno, ma che già allora erano divenuti notissimi per aver ospitato nel 1931 le riprese del film Luci della città di Charlie Chaplin. Maskelyne sta decidendo con Basil Spence quali sono i mezzi di cui hanno bisogno. Carri armati gonfiabili, simili a quelli già impiegati a El Alamein, ma anche aerei di compensato, camion e un numero notevolissimo di mezzi da sbarco. Il lavoro si svolge febbrilmente. Ci vuole tempo per realizzare al meglio questi finti mezzi militari. Devono risultare assolutamente veritieri agli occhi dei tedeschi e Maskelyne e i suoi uomini passano giorni e notti intere al lavoro. Ma infine, tutto è pronto per il D-Day. La fatidica data è arrivata, come ricorda Alberto Angela. È l'alba del 6 giugno 1944. Un'alba di una giornata umida, da cielo coperto, non molto diversa da questa. E le spiagge della Normandia sono completamente ricoperte di sistemi difensivi, sbarramenti di ferro, di cemento e anche mine sepolte. Gli alleati sbarcano in Normandia, ma la 15ª armata tedesca, l'esercito più potente di Hitler, si trova a Calais, dove i nazisti sono certi che avverrà l'offensiva nemica, convinti da falsi dispacci, messaggi creati ad arte dalle spie inglesi e francesi e soprattutto dal finto dispiego di armi, uomini e mezzi di trasporto via terra, via aria e via mare, realizzato con maestria dalla Magic Gang. L'offensiva è comunque sanguinosa e provoca ingenti perdite di vite umane da ambo le parti. Lo sbarco in Normandia è considerata una delle pagine più toccanti della storia mondiale e ha ispirato il capolavoro di Steven Spielberg, Salvate il soldato Ryan. Vedete la sabbia lontana dalle armi? Togli i tuoi uomini dalla schiaccia! Non allontanarti da me, signore. Per Jasper Maskelyne, il successo dell'impresa di Calais è uno dei momenti più belli della sua vita. La notizia della sconfitta delle truppe di Hitler lo raggiunge mentre si trova a Londra, dove lui e tutta la Magic Gang sono tornati a missione compiuta. Ma la soddisfazione più grande sono le parole che Churchill indirizza a tutti i suoi soldati. In condizioni terribili, i nostri hanno resistito senza riposo, per giorni e notti, facendo un viaggio dopo l'altro, attraverso acque pericolose, portando con sé sempre gli uomini che riuscivano a salvare, il loro numero dalla misura della devozione e del coraggio dei nostri soldati. Con la fine del conflitto mondiale, Maskelyne viene congedato e la Magic Gang sciolta. Ma le gesta di questi uomini coraggiosi e abilissimi non possono venire divulgate perché rappresentano ancora un segreto militare e quindi gli onori della gloria e delle medaglie al valor militare non possono essere per loro. Gli incartamenti ufficiali che si riferiscono alle azioni militari svolte da Jasper Maskelyne e dai suoi uomini sono tuttora nelle mani del governo britannico e saranno resi pubblici solo nel 2021, in quanto ancora ritenuti segreti di Stato. Solo allora le gesta del grande illusionista potranno essere conosciute nei loro dettagli dal mondo intero e il nome di Jasper Maskelyne sarà finalmente consegnato alla storia. Destini incrociati.